Sara? Sì, buongiorno. Lei invece che sa fare? Io avevo avuto per 5 anni un laboratorio di confezioni e siccome dovevo pagare il signore che mi veniva a sistemare le macchine, il signore che mi cambiava la luce, e mi chiamavano sempre, mi chiedevano il diritto di chiamata, sì, che erano 25 euro solamente per 25.000 lire. Per venire a vedere che era? Solamente per, no, solamente perché io lo chiamavo, e poi c'erano tutto l'orario che doveva... che dovevo pagarlo per fare la riparazione. Allora io ho imparato a guardare quello che faceva lui e così ho imparato a sostituirmi le spine, sapere dov'è la terra, quali sono, perché poi le macchine da cucire, se tu le metti i fili inversi invece di andare avanti vanno indietro, e poi siccome avevo questo laboratorio magari mi cadeva un pezzo di muro, ho imparato a stucare, ho imparato a colorare, poi siccome mio marito è un tipo pigro e avevo la bombola del gas, ho imparato a sostituirmi la bombola. Cambiare la bombola non era uno scherzo, guardi, ogni volta si rischiava, no, come disinnescare una bomba d'aereo in esplosa. Certo, c'era la chiave, la guarnizione. La guarnizione di sughero. E poi come si vedeva se perdeva il gas? Bisognava, cioè, a parte il fatto che quando cambiavi la guarnizione eri quasi sicuro che non perdeva il gas. Sì, però dopo cosa si faceva? Si accendeva? Non è preparata, non si metteva con un fiammifero, con l'accendino e si sedeva intorno, se si scoppiava vuol dire che era stata montata male. Ma no, io non ho mai provato. Così si fa. Allora scrive Lucia, vediamo se lei è d'accordo. Ci scrive Lucia: caro Nicoletti, abbiamo allevato fichetti che si depilano le sopracciglia, gli uomini che riparano lavandini non ci sono più o si fanno pagare 500 euro eppure loro con le sopracciglia depilate. Questo mi sembra veramente una condanna irreversibile per chi oggi si presta a fare una pallida rivisitazione del duro, rude e virile bricolage che noi soltanto sapevamo fare.